voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Do you think a woman should be educated? Definitely. But is it not a problem that a woman have a smaller brain than a man? That is wrong. But the government scientist Dr. Yamak have proved it is size of squirrel. Your government scientist? Yes, Dr. Yamak. He's wrong. Napoli, 21 gennaio. Non c'era da fidarsi, e basta. Portare via in fretta i camion da quell'inferno di carretti e creature. Vera e propria orda di cani famelici e randagi, di grida incomprensibili che volano da una parte all'altra e di puzza di grasso mista a quella dolciastra della frutta marcia. Sistemare il carico e via, senza indugi, niente fermate, lui davanti e palmo al seguito, anche 12 ore di fila. Un posto così, con le storie della guerra, la sua guerra, non c'entrava niente. O meglio, c'entrava. Eh sì, è come se c'entrava. Bastava girare lo sguardo, tutti i segni della flotta, tutti quei militari, ma in un altro modo che doveva ancora capire. Gli avevano detto che era come Calcutta e lui aveva annuito. Ma chi l'aveva mai vista Calcutta? Certo non Ettore, che comunque di casini, merde e fucilate era certo di averne visti abbastanza. Ma questa Calcutta del mezzogiorno, Napoli, gli faceva effetto e Palmo lo preoccupava. Quanto cazzo di gente c'era a girare là intorno? Andare via, rapidi, sorridenti e amichevoli, ma rapidi. Non aveva nemmeno delle caramelle o del cioccolato, che ne so. Tutti quei bambini che saltavano, gridavano, correvano indemoniati su quei carretti di legno con sotto rotelle di ferro inchiodate alla meglio, gli davano l'ansia, una cosa sottile, come il male che si era portato via parte della sua famiglia e molti compagni, che nemmeno il Thompson, ben riposto sotto il sedile di guida, riusciva a placare. Sigarette americane, accendisigari a gas liquido a retrocarica Ronson, whisky di varie marche e orologi patacca con cui le mezze calzette della via Emilia avrebbero alleggerito i portafogli di tanti gonzi. Quello era il carico di Ettore a Napoli, ricoperto da balle di paglia e tela di sacco in quantità. Era la prima volta che viaggiavano con due mezzi, grossi, telonati, eredità bellica che facevano più fumo del vulcano là di fronte. Non bisognava distrarsi. L'uomo che tutti, deferenti e assoggettati, chiamavano Vic, dirigeva quel caos pressoché immobile, dentro un doppio petto blu scuro che lo rendeva ancora più tarchiato, un cubo di basalto con i capelli tirati indietro dalla brillantina e il ciuffo sporgente. Tra non molto, Vic gli avrebbe fatto un cenno col capo e si sarebbero mossi, lui davanti e Palmo dietro, verso l'uscita del porto. Diede un colpo di clacson in mezzo al frastuono e per un momento vide l'espressione poco intelligente di Palmo scuotersi, un momento solo, prima di spostare il faccione fuori dal finestrino. «Quando ci danno il via, stammi attaccato al culo e non ti fermare, mai!» disse Ettore a voce alta, con Palmo che annuiva poco convinto. Questo era ancora 54 di Wu Ming. Keeps you running. seconda parte di Eclettica che è partita alla grande. Ho voluto partire con il botto, con i Caribou e la loro Melody Day, sicuramente uno dei pezzi più belli del momento in assoluto. Sapete quanto siano importanti le singole canzoni, non l'album, non la storia lunga dell'artista, ma l'emozione che una canzone riesce a regalarti. Le emozioni che sono insite in Melody Day sono veramente tante, seguono l'evoluzione del pezzo. Caribou hanno aperto la seconda parte di Eclettica dalle 19.30 alle 20, minuto più, minuto meno, come tutti i giorni, dopo la prima parte che invece è dalle 19 alle 19.30. Tutti i giorni sì, ma tenete presente che questa è l'ultima settimana della vecchia stagione, la stagione numero 13, poi breve pausa e poi si riprenderà con la stagione numero 14. Ma in questo orario ci sarà sempre e comunque la musica di Eclettica. giulio@radiorockfm.com, comunque l'indirizzo di mail da utilizzare nel caso vogliate avere aggiornamenti più precisi. Poi dopo i Caribou ci siamo appena ascoltati a Lina Simone, So Edged Grass è il titolo del pezzo appena ascoltato, ed ora invece finalmente il nuovo per Arts and Crafts degli Stars, dopo Set Yourself on Fire, il loro album del 2005 che era il terzo in studio, arriva il quarto in studio, In Our Bedroom After the War, dal quale ci ascoltiamo Take Me to the Riot. Demeaning. Do you know the word demeaning? No. We are saying to you. I could not concentrate on what this old man was saying. They should get paid. All I could think about was this lovely woman in her red water panties. Who was this CJ? It's just a bad movie where there's no crying. And in the keys to me, in this red line, where the love that you locked in the sweet says there's no prying. When the breath that you breathed in the street screams there's no science. When you look how you look then to me, then I cease lying and fall into silence. So there's no climax, no more new territory. So pull away your max. In the slot that you sliced through the scene, there was no shyness. In the plot that you passed through your teeth, there was no pity, no fate. Socket you spin from with ease, there is no sticking. From the speakers your fake masterpiece comes serenely dribbling. And when the air around your chair fills with heat, that's the flames licking beneath the clock on the clean mantelpiece. It's got a cold clicking like a crow at his anything sweet takes to win. Bologna, domenica 24 gennaio. Si sporse in avanti tra i sedili e indicò al tassista il viale alberato sulla destra. I tronchi dei pioppi affondavano nel mucchio di neve ai lati della strada e le ruote dell'auto sollevavano schizzi di fango sui finestrini laterali. Angela si era messa di proposito le scarpe col tacco alto, sperando con quella scusa di convincere Ferruccio a rinunciare alla passeggiata. L'usciere riconobbe la signora Montroni non appena la vide entrare e subito mandò a chiamare l'infermiere che si occupava del fratello. Angela non amava troppo Villa Azzurra, ma almeno non era un manicomio. Dopo la guerra, i primi mesi del 48, Ferruccio era stato ricoverato 2 settimane in ospedale psichiatrico. Il ricordo di quel posto le dava ancora i brividi. Urla, corpi rattrappiti in posizioni assurde, laghi di piscia sul pavimento, odori da rovesciare lo stomaco. Finché un giorno non era entrata nella camera del fratello e l'aveva trovato bloccato nel letto con le cinghie. C'erano voluti 3 inservienti per riuscire a trattenerla e impedirle di slegarlo. Ancora un po' e internavano anche lei, non la smetteva più di piangere e gridare. Il giorno successivo aveva convinto il fidanzato, Odoacre, a firmare l'assunzione di responsabilità. Ferruccio era tornato a casa. «Allora, come vanno le cose?» domandò Angela all'infermiere come da copione. Lo chiedeva tutte le volte, anche se conosceva già la risposta. «Non c'è male, signora Montroni, facciamo progressi. Fa un po' fatica a dormire, si sveglia, vuol fare colazione alle 3 del mattino, insiste per avere le sigarette, poi durante il giorno si mette tranquillo e non dà quasi problemi». «Si mette tranquillo, non dà problemi». Il modo per dire che il nuovo calmante faceva effetto. A Villa Azzurra erano bravi e il cognato del dottor Montroni, figurarsi, era trattato con tutti i riguardi. Anche Marco, l'infermiere, ottima persona, si vedeva che si era affezionato a Ferruccio. Però non c'era niente da fare. Lì dentro, stare bene significava non dare problemi. Se suo fratello si alterava e dava uno schiaffo a qualcuno, allora stava male. Se rimaneva tutto il giorno in giardino con 3 gradi sotto zero a fissare le nuvole, allora tutto a posto, stava bene. Questo era ancora 54 di Wu Ming. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 49, volume numero 3. Indice, Bodies of Water, The Pigeon Detectives, Menomena, Faced, Dear Tick, No Age, Caribou, Alina Simone, Stars, Okkervil River, Yes Sayer. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda a domani, sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.